sveglio stamattina, tu non sei accanto a me, ma so dove trovarti, su ogni foto lo scrivi, dove sei, cosa fai, cosa mangi, come stai, ti sei ancora dimenticata di noi l'altra sera, potrei venire a cercarti, come sai un'altra volta, ma il gioco lo conosco, anche se cambio una mossa. Dureremo solo un giorno, come una Instagram story, c'è una data di scadenza scritta sui nostri cuori, la mattina non la vedi, riflessa nello specchio, la notte non la senti nel calore di un abbraccio. Seduta in un caffè, le solite due foto, invece un solo scatto stampato nella mente. Sarà un vuoto a perdere, ma voglio riprovare. Ciao, forse non ricordi, ci siamo conosciuti ieri. Dureremo solo un giorno, come una Instagram story, c'è una data di scadenza scritta sui nostri cuori, la mattina non la vedi, riflessa nello specchio, la notte non la senti nel calore di un abbraccio. Mille volte ci ho provato a dirti che esiste un continuare, ci proverò altre mille volte a costo di impazzire, a caso ho completato un puzzle di memorie con oggetti che abbandoni e che poi non riconosci, se non sono sul rullino a ricordi non gli dai valore. Io voglio farti vedere che ha più valore il nostro cuore, ha più valore il nostro cuore, ha più valore il nostro cuore. Dureremo solo un giorno, come una Instagram story, c'è una data di scadenza scritta sui nostri cuori, la mattina non la vedi, riflessa nello specchio, la notte non la senti nel calore di un abbraccio. Dureremo solo un giorno, come una Instagram story, c'è una data di scadenza scritta sui nostri cuori, la mattina non la vedi, riflessa nello specchio, la notte non la senti nel calore di un abbraccio. Mi sveglio stamattina, tu non sei accanto a me, ma so dove trovarti, su ogni foto lo scrivi.